Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti alla Rassegna Stampa Europea, buongiorno da Giulia Crivelli, buon sabato a tutti. Cominciamo dalla FAZ, la Frankfurt Allgemeine Zeitung, questa signora in grigio, così viene chiamata perché è un giornale molto austero, pochissime fotografie. Nelle settimane scorse si è occupata tantissimo dei proclami o delle dichiarazioni o delle azioni della BCE e di Mario Draghi. Questa settimana ha ospitato nella versione online le opinioni di David Volkerts Landau, che è il capo economista della Deutsche Bank, e questo economista ha espresso le sue riserve sul possibile acquisto dei titoli di Stato da parte della Banca Centrale Europea. Secondo Volkerts Landau, la Banca Centrale compra tempo, ma il tempo non viene utilizzato. Naturalmente la critica è anche a questo tentativo comunque di aiutare i paesi più in difficoltà in questo momento, che sono, lo sappiamo, la Francia e l'Italia, così anche come ci ha spiegato il Presidente della Commissione Juncker. Secondo tra l'altro l'economista, la Germania è sotto pressione per il fatto di dover pagare di più per il contrasto all'eurocrisi, questo l'abbiamo visto anche negli articoli della settimana scorsa. Secondo questo economista, tuttavia, nel medio-lungo termine le prospettive dell'eurozona sono buone, è fiducioso perché ci sono comunque quelle che lui chiama capacità di collaborazione, di risolvere i conflitti e di legiferare, e non so se questo appunto è un atto di ottimismo finale, un wishful thinking come dicono gli inglesi. Sempre la FAZ si è occupata di noi italiani, in particolare di quelle che secondo la FAZ si stanno diffondendo come teorie di cospirazione che riguarderebbero la Germania. La FAZ non si è lasciata sfuggire che l'Italia ha un tasso di lettura, di diffusione dei libri e di vendita dei libri molto bassi, e quindi ha titolato: gli italiani leggono poco, ma se lo fanno scelgono queste teorie di cospirazione della Germania. Il riferimento è in particolare a un libro di Vittorio Feltri che si intitola Quarto Reich, come la Germania ha sottomesso l'Europa, un libro scritto da Feltri insieme a Gennaro San Giuliano, pubblicato da Mondadori, che è da parecchi mesi uno dei saggi più venduti in Italia. Secondo appunto questo libro, la Germania ha in qualche modo ostacolato la ripresa di alcuni paesi con i suoi diktat rigoristi, e addirittura si sostiene nel libro, a quanto poi sintetizza la FAZ per i suoi lettori, che la sottomissione che la Germania sta attuando nei confronti dell'Europa è una sottomissione che non le era riuscita quando ha cercato di farlo con la forza durante la Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente è un articolo molto critico verso questo libro, verso questa teoria complottista, e la FAZ auspica che invece l'Italia prosegua sul percorso delle riforme perché è meglio per il paese e non per la Germania. Quanto invece ai politici italiani in senso più stretto, anche se sicuramente giornalisti come Vittorio Feltri sono in grado di influenzare la politica italiana, o comunque l'opinione pubblica degli italiani, l'Economist ha pubblicato un articolo sul Movimento 5 Stelle. Sappiamo tutti insomma che nel Movimento 5 Stelle c'è un po' di terremoto, un po' di maremoto, è stato creato questo direttorio ed è stato sollevato il divieto ai propri iscritti di andare in televisione, e negli ultimi 10 giorni in effetti di rappresentanti del Movimento 5 Stelle ne abbiamo visti tutto un tratto tantissimi in televisione, come se in fondo non aspettassero altro. Ma l'Economist in realtà si è occupato del fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, definito la stella cadente. Lo spunto sono le dichiarazioni fatte circa 10 giorni fa da Beppe Grillo, quando ha detto di essere stanchino. Però l'Economist dice: forse è il movimento a essere stanco della sua leadership dittatoriale. Si ripercorrono un po' le ultime fasi del movimento e si riporta anche tutto l'elenco dei candidati a essere espulsi. Secondo l'Economist, il comico spettinato, così viene definito, può ancora suscitare il plauso delle folle con i suoi attacchi all'inettitudine dei tradizionali partiti italiani, con la sua offerta di referendum contro l'euro e con la sua promessa di democrazia diretta online. Fino a che l'economia italiana continuerà a vacillare, i suoi principali partiti a barcamenarsi tra uno scandalo e l'altro, è probabile che il suo appeal sia destinato a perdurare, come quelli, scrive l'Economist, di altri leader politici e di movimenti euroscettici o addirittura eurofobici che hanno avuto molta fortuna alle ultime elezioni europee, quelle del 25 maggio, ma che continuano a mietere successi anche dove ci sono elezioni amministrative e politiche. Financial Times si occupa più strettamente di un'altra questione della BCE e dice che la seconda rata di rifinanziamenti di lungo termine agevolati che la BCE sta offrendo alle banche è destinata a deludere. È una profezia, quella appunto del quotidiano economico britannico, perché anche se l'ammontare delle richieste dovesse raggiungere i 170 miliardi di euro che corrispondono alle attese medie degli analisti, segnando comunque un incremento rispetto alla prima asta dei cosiddetti TLTRO, che sta per Targeted Long Term Refinancing Operation, erogati a settembre, comunque questi nuovi fondi, secondo Financial Times, non interverranno alla radice dei problemi. Una piccola parentesi che riguarda proprio solo noi, ma solo noi come appunto paese che comunque produce degli interessanti, chiamiamoli così, esempi culturali. Se ne è accorto il New York Times, che ha intervistato Elena Ferrante, che sapete è un'autrice che nessuno ha mai visto, nessuno ha mai sentito parlare, però molti sostengono che non è uno pseudonimo ma è il vero nome di una vera persona, e Rachel Donadio, che è la corrispondente dall'Italia del New York Times, l'ha intervistata via mail in realtà, ed è in realtà la più esauriente intervista in molti anni, che però non ha svelato l'identità di questa persona, né è possibile averne una fotografia. I suoi libri hanno molto successo, sono anche tradotti all'estero, e al New York Times la scrittrice ha raccontato di aver scoperto da bambina che le piaceva raccontare storie, di aver cominciato a scrivere a 13 anni e aver proseguito fino ai 20. Nega assolutamente di essere in realtà che dietro il suo nome, nega via mail, quindi non abbiamo poi le prove, insomma dobbiamo crederle, dobbiamo fare un atto di fede. Si è detto negli anni scorsi che addirittura dietro questo pseudonimo potrebbe celarsi il nome di un altro scrittore, potrebbe celarsi un altro scrittore italiano uomo, Domenico Starnone, ma in questa intervista concessa al New York Times Elena Ferrante, o il suo avatar potremmo dire, ha negato. Passiamo a una questione proprio più strettamente europea. Ne ha parlato Esti Pevalet, un quotidiano estone. Come potete immaginare, non ho imparato l'estone nell'ultima settimana, ma ho letto questo articolo nella traduzione del sito www.presseurope.eu, sapete, una delle mie passioni. In questo articolo si racconta che la Repubblica Baltica, che è pioniera nell'amministrazione online, ha introdotto dall'inizio del mese la cosiddetta e-residenza, che offre agli stranieri una grande varietà di servizi pubblici informatici indipendentemente dalla loro presenza sul territorio estone. Se ne è occupato, oltre che al quotidiano estone Esti Pevalet, anche il New York Times, che racconta come gli estoni, grazie a questa carta d'identità a microchip, possono accedere a circa 4.000 servizi. Un sogno, un'utopia per noi italiani, che sapete, qui in Italia la carta d'identità elettronica non è ancora decollata. Quindi questi 4.000 servizi vanno dalla banca alla registrazione di un'azienda o alla licenza di pesca. Pensate, i cittadini possono consultare le loro cartelle cliniche online, ordinare le medicine prescritte sulle ricette, anche utilizzando degli smartphone. Quasi tutti fanno la dichiarazione dei redditi online in pochi minuti, circa un terzo degli elettori vota addirittura online. Da dicembre questa grande opportunità che viene offerta agli estoni, tutti i cittadini dell'Unione Europea e dei paesi terzi possono fare domanda per una carta di e-residente in Estonia. Quindi appunto questa possibilità, che era riservata solo ai cittadini del paese, adesso sarà riservata a tutti noi. Il New York Times cerca proprio di spiegare, anche perché negli Stati Uniti, contrariamente a quanto si possa pensare, visto che le più grandi aziende tecnologiche del mondo sono americane, in realtà gli Stati Uniti sono abbastanza indietro su certe cose, come il cosiddetto appunto e-government. Allora il New York Times spiega che il sistema si fonda su due pilastri. A 15 anni tutti gli estoni ricevono una carta d'identità con un microchip sul quale sono presenti le informazioni personali e che dà accesso ai servizi pubblici e personali. Insomma, wishful thinking, dico io, speriamo che presto l'Italia impari dalla piccola Estonia e offra anche a noi qualche servizio elettronico in più. Concludo con una segnalazione dal Tageszeitung, un quotidiano tedesco, che torna sulla questione dell'immigrazione e soprattutto sui morti nel Mediterraneo. Il mare è pieno, il titolo dell'articolo, che spiega che soltanto nel 2014 207.000 persone hanno tentato di entrare in Europa passando dal Mediterraneo. 3.400 ci hanno lasciato la vita e quasi ogni mese vengono registrati nuovi record di rifugiati, perché ci sono più domande di asilo, più rifugiati che arrivano via mare, più morti, più profughi, più vittime di guerra. Quest'ultimo dato spiega che il Tageszeitung aggiunge anche che finché la miseria non sarà eliminata dall'Africa e dall'Asia, il problema non potrà essere risolto. Il programma Mare Nostrum è osteggiato non soltanto da una parte dei politici italiani, ma anche di molti altri paesi, perché poi sapete che spesso l'Italia è solo il primo traguardo di chi riesce a superare la traversata, che poi si avvia verso i paesi del nord, in primis la Germania. Era l'ultima segnalazione, come vi dicevo. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.